Europa 24. E buona giornata anche da Anna Migliorati. Si gioca anche in Europa la partita dell'occupazione. Il vertice europeo di domani e venerdì potrebbe però essere inutile. Il Parlamento europeo si prepara a dire no all'accordo sul bilancio. Ieri sera è saltato l'accordo, come avete sentito anche in GR24, e dunque i fondi potrebbero in sostanza non esserci. Invito tutte le parti coinvolte ad assumersi le loro responsabilità e l'appello rivolto dal presidente Herman Van Rompuy questa mattina. Il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ribadisce le richieste invece del Parlamento di Strasburgo, la flessibilità, la revisione di medio termine per non ingessare tutta la prossima legislatura sull'austerity e soprattutto il ripianamento del buco nel budget 2013, attualmente stimato dalla Commissione in 11,2 miliardi, ma con i governi impegnati a pagarne solo 7,2. Nella delegazione che sta trattando per il Parlamento europeo c'è l'eurodeputato italiano Giovanni Ravia. Si aprono scenari un po' più complessi, ma vediamo, è stato convocato un Ecofin straordinario prima del Consiglio e questo Ecofin affronterà il tema. Se non si dovesse raggiungere un accordo adesso, si slitta in realtà a dopo settembre. Andremo da un bilancio pluriennale, sicuramente un sistema di bilanci annuali che per gli Stati membri mi sembra molto peggio di quello pluriennale. E sul tavolo dell'Ecofin c'è anche un altro capitolo, l'unione bancaria, ma la trattativa anche su questo fronte è tutt'altro che scontata. Stasera i ministri dell'economia e delle finanze si incontrano a Bruxelles per cercare di colmare le profonde divisioni che rimangono in materia dei meccanismi di salvataggio dei grandi istituti di credito in difficoltà. Non facile trovare il compromesso all'Ecofin tra i tedeschi che vogliono dei protocolli molto rigidi per gli interventi di salvataggio, gli inglesi che al contrario preferiscono molto più flessibilità e non vogliono essere sottoposti a troppi vincoli da Bruxelles in campo finanziario. E anche l'Italia ha delle proprie richieste, essendo interessata a tutelare gli interessi degli obbligazionisti in caso di default di una banca. Non facile quindi arrivare a un'intesa che soddisfi tutti, anche se sarebbe importante per poter far decollare con il piede giusto il vertice europeo dei capi di Stato e di Governo che si terrà domani e dopodomani sempre a Bruxelles e che dovrebbe avere proprio nell'unione bancaria uno dei piatti forti. Altro tema chiave sarà il pacchetto di circa 6 miliardi aggiuntivi per la lotta alla disoccupazione e i nuovi strumenti di finanziamento in intesa con la Banca Europea per gli investimenti per lo sblocco dei crediti alle piccole e medie imprese. Enrico Brivio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il riciclaggio di denaro sporco costituisce un pericolo per l'intero sistema finanziario mondiale, soprattutto nell'attuale fase di crisi, e l'allarme è lanciato intanto dall'organismo del Consiglio d'Europa che controlla l'applicazione degli standard anti-riciclaggio nel rapporto annuale. Si chiede di intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno. A Bruxelles sotto esame anche la questione Roma. Un invito da parte della Commissione agli Stati membri perché rispettino i loro impegni per migliorare l'integrazione economica e sociale dei 10-12 milioni di Rom che vivono in Europa. Oggi è stata presentata una relazione da parte della Commissione sui progressi compiuti che mostra un grave deficit su questo fronte da parte degli Stati europei. A questo punto, ha dichiarato la vicepresidente Viviane Reding, commissaria europea per la giustizia, il quadro dell'Unione per le strategie nazionali di integrazione dei Rom è in vigore da più di 2 anni ed è giunto il momento di tradurre le strategie in azioni concrete. Se è vero, come da relazione presentata alla stampa, che la maggior parte degli Stati europei non ha stanziato risorse sufficienti a carico dei bilanci nazionali per attuare strategie integrative, è vero anche che la stessa relazione mette in luce una serie di esempi di buone prassi attuate dai paesi europei come il piano di azione regionale per l'inclusione dei Rom del Land di Berlino, oppure la cooperazione tra autorità nazionali e attori locali in Francia e ancora il lavoro compiuto in Bulgaria per mobilitare meglio i fondi dell'Unione Europea verso la comunità Rom. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo un dibattito interamente dedicato all'Europa in occasione dell'inaugurazione del Festival Tabula Rasa di Reggio Calabria. Venerdì 28 giugno alle 12 presso la sede dell'Università degli Stranieri, Raffaella De Marte, social media manager del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, coordinerà un talk show dal titolo La coesione dell'Unione Europea, il ruolo decisivo della comunicazione. L'incontro si svolgerà davanti all'assemblea studentesca, composta da giovani provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea, ed è aperto a tutti, anche ai non studenti. Per informazioni e per il programma del festival Tabula Rasa, www.tabularasafestival.com. E facciamo in tempo a darvi un'ultima ora da Bruxelles. Accordo raggiunto dal team di negoziatori di Parlamento, Consiglio e Commissione sulla politica agricola europea, la cosiddetta PAC. Sarà sottoposta oggi pomeriggio al vaglio della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, ma almeno su un punto l'accordo a Bruxelles sembra trovato. Poco fa la dichiarazione del Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento, l'italiano Paolo De Castro. Ci fermiamo qui, naturalmente gli aggiornamenti, l'Europa vi aspetta alle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.